Le nuove sfide apostoliche. 16. Il Congresso Generale ha voluto riprendere una raccomandazione del Congresso del 2002 che Nun Javier formulò in questi termini: stimolare una nuova cultura, una nuova legislazione, una nuova moda, che siano coerenti con la dignità della persona umana, destinata alla gloria dei figli di Dio in Cristo. Lettera del 28 novembre 2002, numero 11, in Cartas de Familia 5, numero 118. Tutti i fedeli della prelatura, i ragazzi di San Raffaele e i cooperatori, devono sentirsi protagonisti di questa nuova cultura che deve superare la mentalità relativista contemporanea. Ciò richiede da parte di ciascuno, secondo le sue possibilità, una profonda formazione umana, professionale e dottrinale, e una decisa presenza nei luoghi di cultura ai quali può accedere con l'apertura mentale che permette di stare con tutti. È indispensabile anche un certo ascendente che si acquista se si prendono sul serio gli altri. È un personale dono delle lingue, coltivato con il desiderio di un rinnovamento continuo. Così si favorisce quella empatia grazie alla quale la visione cristiana della realtà appare convincente, perché tiene presente anche le preoccupazioni del prossimo, senza sottometterlo né limitandosi al monologo. Il rispetto della dignità di ogni persona, al di sopra dei suoi errori e del bene comune della società, il lavoro sereno e responsabile, in collaborazione con gli altri cittadini, mette in evidenza la bellezza e l'attrattiva dei valori cristiani nei diversi ambiti della società. 17. Per capire la complessità di certi settori della vita sociale si richiede l'aiuto di esperti, per esempio in vari campi, l'uso delle tecnologie digitali di informazione e comunicazione, la collaborazione alle iniziative educative, la comunicazione istituzionale, l'amministrazione di progetti universitari, la direzione e la gestione di ospedali e cliniche, i progetti di promozione sociale, la creazione e il sostentamento di fondi patrimoniali. L'esigenza di una competenza professionale fa parte della mentalità laicale e va di pari passo con i desideri dell'anima sacerdotale, perfezionare la creazione e corredimere. Per promuovere una nuova cultura è necessario formare esperti che con buon criterio possano aiutare a mettere a fuoco, sulla base di un'antropologia cristiana, questioni particolarmente complesse: genere, uguaglianza, obiezione di coscienza, libertà religiosa, libertà di espressione, bioetica, modalità di comunicazione, per citarne soltanto alcune. Un posto privilegiato per studiare questi temi sono le università e i centri di ricerca. Inoltre, conviene elaborare con prudenza e audacia un progetto di formazione adatto a ogni persona, cominciando dai più giovani, perché abbiano idee ben fondate, senza chiudersi in un atteggiamento meramente difensivo. È necessario farsi carico della validità delle diverse posizioni, dialogare con altre persone, imparando da tutti e rispettandone accuratamente la libertà, ancor più nelle materie opinabili. 18. È famosa l'affermazione del beato Paolo VI, il quale diceva che l'uomo contemporaneo ascolta più con più piacere quelli che danno testimonianza che quelli che insegnano. E continuava: che si ascoltano quelli che insegnano è perché ne danno testimonianza. Evangeli Nunziandi, 8 dicembre 75, numero 41. Nella cultura contemporanea si ha bisogno di volti che rendano credibile un messaggio. Proprio per questo è preferibile presentare testimonianze attraenti di vita cristiana messa a servizio degli altri. Oltre a formare leaders di opinione, occorre stimolare iniziative di informazione sulla Chiesa e nel suo seno sulla prelatura dell'Opus Dei, anche mediante le reti sociali, così efficaci nell'arrivare immediatamente a migliaia di persone. Lo sviluppo di queste iniziative dipende dalla generosità e dalla creatività di coloro che le sostengono. 19. A parte l'apostolato personale di amicizia e confidenza, il Congresso ha voluto manifestare il pieno sostegno alle attività apostoliche corporative e personali. La loro fecondità apostolica è provata dalla formazione integrale che elargiscono, insegnano, educano, invitano al servizio degli altri. È importante che riescano a coinvolgere molte altre persone, avvicinandole poco a poco alle ricchezze della fede cristiana che libera dalla paura e dalla tristezza. Perché questa fede si incarni nella vita quotidiana sono necessari mezzi di formazione adattati alle famiglie, agli alunni delle scuole, agli studenti universitari. Per far questo occorre motivare le persone e prepararle bene. 20. In vista dell'evangelizzazione della società e dello sviluppo sostenuto dell'attività apostolica, è bene che sorgano nuove scuole nelle quali si possa dare una formazione umana e cristiana ai genitori e ai loro figli, fin dalla più tenera età. Quando la creazione di questi centri è soggetta a una legislazione che impedisce o rende difficile che siano un'opera cooperativa o un lavoro personale, malgrado tutto possono presentarsi condizioni che permettono di ricevere un'assistenza spirituale da parte dei sacerdoti della prelatura. 21. Nella sua seconda enciclica il Papa insegna: nella famiglia si coltivano le prime abitudini di amore e cura per la vita, come per esempio l'uso corretto delle cose, l'ordine e la pulizia, il rispetto per l'ecosistema locale e la protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo della formazione integrale dove si dispiegano i diversi aspetti intimamente relazionati tra loro della maturazione personale. Laudato Si, numero 213. La persona matura con il tempo e se guarda in avanti con fiducia. È necessario stimolare nelle famiglie il profondo senso della virtù della speranza. Sarà opportuno studiare i modi pratici per svolgere la preparazione del matrimonio, sostenere l'amore reciproco tra gli sposi e la vita cristiana nelle famiglie, ravvivare la vita sacramentale dei nonni, genitori e figli, e in particolare la confessione frequente. Cristo abbraccia tutte le età dell'uomo. Nessuno è inutile o superfluo. Il congresso apprezza l'attività dei gruppi di studio sul ruolo educativo, sociale ed economico della famiglia, in vista di creare nell'opinione pubblica un ambiente favorevole alle famiglie numerose. Sarà opportuno migliorare l'attenzione verso quelle già in contatto con i diversi strumenti apostolici, esempio kindergarten, scuole, club, università, residenze. L'orientamento familiare, tanto incoraggiato da Don Javier, continua ad essere una priorità perché contribuisce efficacemente a consolidare l'amore reciproco dei coniugi e la loro apertura alla vita, e favorisce il processo per cui dalla realtà della famiglia naturale si finisce nella gioia della famiglia come spazio spirituale cristiano. Con molte iniziative si arriva a un numero sempre maggiore di famiglie giovani e si realizza un vasto lavoro formativo. Si fa scoprire così a molte persone la bellezza del matrimonio sacramentale, immagine dell'unione di Cristo alla sua Chiesa. Efesini 5:32. Con il sacramento, la pace e la gioia dello Spirito Santo entrano nei focolari domestici. Nell'amore reciproco dei genitori, come nella liturgia e nella comunione della Chiesa, Dio ci ama, ci fa vedere e sperimentare il suo amore, e da questo prima di Dio può come risposta spuntare l'amore anche in noi. Benedetto XVI, Deus Caritas Est, numero 17, Giovanni 1:4-10. 22. Il congresso ha voluto indicare un campo apostolico che negli ultimi anni ha acquistato un grande rilievo. Si tratta di contribuire alla crescita della fede e della formazione di tanti immigrati provenienti da paesi di tradizione cattolica. Per esempio, filippini, latinoamericani, polacchi, eccetera. Formandoli anche umanamente. Oltre ad aiutarli a sviluppare la propria identità, tale formazione fa di loro, nel paese che li accoglie, un autentico lievito per l'evangelizzazione. Vedi Luca 13:20. Nel mondo intero, parecchie decine di chiese, affidate dai vescovi a sacerdoti incardinati nella prenatura, sono in grado di sostenere efficacemente questo lavoro, seguendo i programmi pastorali degli ordinari diocesani dai quali dipendono. L'opera nelle nostre mani. 23. Per dare impulso alle attività non ci sono soltanto i numerari e gli aggregati. Conviene anche responsabilizzare molto i soprannumerari e le soprannumerarie e aiutarli. Devono sentire che l'opera è loro, quasi fosse un altro figlio. Così come disse una volta nostro padre: fra tutti asciugheremo molte lacrime, daremo molta cultura, daremo molta pace, eviteremo molti liti e molte lotte, e faremo in modo che le persone si guardino negli occhi con la nobiltà dei cristiani, senza odio. Appunti presi in una riunione familiare il 18 giugno 74 in Catechesis in America, nel 1974, volume primo, pagina 549. È importante che i miei figli soprannumerari collaborino col massimo impegno al lavoro di San Raffaele, che ha il fine principale di dare una formazione integrale. Lettera del 24 ottobre 42, numero 3. È normale e in alcuni luoghi anche abituale che i soprannumerari diano slancio e dirigano club giovanili e altre iniziative educative. Come conseguenza di un'educazione ben assimilata, senza rigidità e senza assilli, quando appare prudente e adeguato, i soprannumerari possono collaborare con Dio alla nascita di vocazioni, di numerari e di aggregati. Preghino in particolare per i loro figli. Con questa possibile prospettiva, con il più grande rispetto per la libertà personale e lasciando tutto nelle mani di Dio. Nel lavoro di San Gabriele conviene aumentare in vari luoghi il numero di soprannumerari incaricati di gruppo, zelatori e coloro che esercitano una regolare direzione spirituale personale. Appoggiarsi di più su di loro perché si occupino dei corsi di ritiro. Invitarli a sviluppare l'apostolato in luoghi dove non c'è ancora un centro. Fare in modo che vi sia una maggiore presenza attiva di aggregati e soprannumerari nei gruppi di lavoro per determinate iniziative apostoliche. Per facilitare la loro formazione, disporranno dei materiali adatti nelle diverse lingue. L'apostolato con la gioventù. 24. Il Congresso Generale ha ribadito l'importanza del lavoro di San Raffaele, la pupilla dei nostri occhi. Lettera del 24 ottobre 42, numero 70. Si suggerisce di dare la priorità a misure generali e particolari che favoriscano lo svolgimento del lavoro con i giovani di ogni tipo e che con la grazia di Dio si stimolino abbondanti vocazioni di numerari e aggregati giovani. Tutti i fedeli della prelatura e i soci della Società Sacerdotale della Santa Croce rifletteranno con l'orazione, la mortificazione e l'azione su come arrivare a molti più giovani. Nel lavoro di San Raffaele una chiara priorità nella formazione dei ragazzi e delle ragazze è quella di aiutarli a essere anime di orazione. Stessa lettera numero 5. Insegnando loro in pratica come parlare con Dio e come ascoltarlo. Conviene anche che scoprano il valore umano e soprannaturale della vera amicizia, l'importanza dello studio, della lettura e dell'eccellenza professionale per servire la Chiesa e la società. Tra le virtù da stimolare nei giovani, il Congresso ha voluto menzionare la fortezza e la fermezza, la temperanza, per esempio nell'uso intelligente e sobrio delle tecnologie, e tutto ciò che fa crescere lo spirito di servizio. È importante aiutare i giovani a dare ragione della loro fede e a trarre le conseguenze pratiche che la sequela del Signore comporta nella loro famiglia, con i loro amici e nelle reti sociali. 25. Ebbene, aiutare a far sì che i giovani e i loro genitori apprezzino e scoprano quanto sia attraente una donazione totale al Signore con il cuore indiviso, facendo loro vedere, nello stesso tempo, quanto sia bella la vocazione a formare una famiglia cristiana. Nei centri di San Raffaele, in cui si svolge il lavoro con gli universitari, vale la pena affrontare diversi aspetti del fidanzamento e del matrimonio, utilizzando diverse risorse, per esempio, le testimonianze dei soprannumerari e delle soprannumerarie, i corsi di orientamento familiare per celibi, le conferenze o le proiezioni, le letture di comprovata utilità. L'urgente necessità della testimonianza di un maggior numero di famiglie cristiane ci invita ad arrivare all'inizio di questo percorso vocazionale ancor prima del fidanzamento, con un autentico rispetto e con una profonda fede nella missione evangelizzatrice della famiglia cristiana, comunità di fede, di speranza e di carità. Catechismo Chiesa Cattolica numero 2204. 26. Continuiamo con entusiasmo l'attività apostolica con gli universitari e i giovani professionisti celibi o sposati da poco tempo, utilizzando la formazione che migliaia di loro hanno ricevuto in tante iniziative apostoliche, in particolare nelle scuole, nei club e nei centri di San Raffaele. In questo senso appare opportuno professionalizzare le associazioni di alunni, lavorando con iniziativa e creatività, sviluppando formule attraenti che permettano la continuità del rapporto nel lavoro di San Gabriele, promuovendo la collaborazione di molte persone come cooperatori. 27. Nei mezzi di formazione di San Raffaele e di San Gabriele è bene favorire l'esercizio delle opere di misericordia spirituali e corporali secondo il costante insegnamento della Chiesa, l'esperienza di San Cosimaria e l'esempio e le parole di Papa Francesco. Le attività e le iniziative personali legate alla solidarietà, il servizio ai bisognosi e la responsabilità sociale non sono qualcosa di congiunturale o marginale, ma si trovano nel nucleo del Vangelo. Approfondire la dottrina sociale della Chiesa, per esempio attraverso corsi e conferenze, aiuterà specialmente in contesti di maggior disuguaglianza sociale. 28. Le università, che sono iniziative apostoliche, devono continuare a promuovere la ricerca con un impatto internazionale e a creare spazi di collaborazione con intellettuali di prestigio mondiale. Questo lavoro aiuterà a svolgere paradigmi scientifici e modelli concettuali coerenti con una visione cristiana della persona, con la convinzione che le società hanno bisogno di queste prospettive per stabilire la pace e la giustizia sociale. Questo atteggiamento di servizio a tutti si esprime anche, naturalmente, nel rapporto di amicizia con i colleghi di altre università. Alcune priorità. 29. Oltre all'inizio sempre più prossimo dell'apostolato stabile della prelatura ai nuovi paesi, il congresso suggerisce di orientare l'espansione apostolica verso alcuni luoghi nei quali già si lavora e che hanno una grande influenza per la futura configurazione della società, in quanto in essi esistono già alcuni organismi internazionali o centri di eccellenza intellettuale. Il congresso invita a proseguire la pubblicazione e la diffusione delle opere complete di San Cosimaria e il corrispondente lavoro di ricerca storica per il bene della Chiesa e delle anime. In concreto si suggerisce di sviluppare ancor più, da prospettive diverse, accademica, teologica, sociologica, spirituale, fra le altre, quell'aspetto centrale del messaggio di San Cosimaria che è il lavoro dei figli di Dio, come cardine della santità e ambito naturale dell'apostolato, con tante conseguenze per la Chiesa e per la società. 30. Sto per terminare. Dopo la lettura delle pagine precedenti, vi potreste domandare, fra le tante conclusioni alle quali è arrivato il congresso, quali sono le priorità che il Signore ci presenta in questo momento storico del mondo, della Chiesa e dell'opera? La risposta è chiara. Prima di tutto, curare con una delicatezza di innamorati la nostra unione con Dio, partendo dalla contemplazione di Gesù Cristo, volto della misericordia del Padre. Il programma di San José María sarà sempre valido. Cerca Cristo, trova Cristo, ama Cristo. Cammino 382. Il lavoro apostolico dell'opera è e deve essere sempre una sovrabbondanza della nostra vita interiore. Sono momenti, figlie e figli miei, idonei per addentrarci sempre più in percorsi di contemplazione in mezzo al mondo. 31. La Chiesa da alcuni decenni ha fissato la sua attenzione materna su due priorità: la famiglia e i giovani. Anche noi, come piccola parte della Chiesa, vogliamo secondare l'impegno dimostrato dagli ultimi papi affinché la famiglia risponda con una fedeltà sempre crescente agli amorevoli progetti che Dio ha tracciato per essa. Nello stesso tempo dobbiamo aiutare tutti i giovani perché i loro sogni di amore e di servizio diventino una gioiosa realtà. Le conclusioni del congresso trovino nel sostegno alla famiglia e ai giovani una linea di forza dalla quale si potranno trarre molte conseguenze pratiche nel nostro lavoro apostolico di ogni giorno. Insieme a queste priorità vorrei sottolineare l'urgenza che tutti abbiamo di allargare il cuore. Chiediamo al Signore di darci un cuore a sua misura, perché vi entrino tutte le necessità, i dolori, le sofferenze degli uomini e delle donne del nostro tempo, specialmente di quelli più deboli. Nel mondo di oggi la povertà mostra molti volti diversi, malati e anziani che sono trattati con indifferenza, la solitudine che sentono molte persone abbandonate, il dramma dei profughi, la miseria nella quale vive buona parte dell'umanità, spesso conseguenza di ingiustizie che gridano al cielo. Niente di questo ci deve apparire indifferente. So che tutte le mie figlie e tutti i miei figli metteranno in movimento la fantasia della carità. Giovanni Paolo II, nuovo millennio in Eunte, numero 50. Metteranno in movimento la fantasia della carità per portare il balsamo della tenerezza di Dio a tutti i nostri fratelli che si trovano nel bisogno. I poveri, diceva quel nostro amico, sono il miglior libro spirituale e il motivo principale delle mie preghiere. Me li sento dolere e mi duole Cristo con loro, e siccome mi duole, capisco che lo amo e li amo. San José María, Solco 827. 32. Il Congresso ha voluto esplicitamente mettere nelle mani della Madonna le conclusioni che vi ho appena trasmesse. Solamente con la sua mediazione materna saremo capaci di andare avanti nell'appassionante missione che ci viene affidata quali discepoli di Cristo. Ella è la Mater Pulchre Dilectionis, la madre del bell'amore, Siracide 24:24, che celebriamo nel calendario proprio della prelatura come festa liturgica oggi 14 febbraio. Vedi la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, decreto 626-12L. In questa data Dio fece vedere a San José María nel 1930 la vocazione delle donne dell'Opus Dei e nel 1943 il posto dei sacerdoti. In tal modo si mise in evidenza ancora di più l'unità dell'opera, l'unità di una disorganizzazione organizzata, vedi colloqui 19, ma soprattutto una unità che nasce dall'amore, dallo stare tutti a disposizione degli altri, figli di colei che è madre di Dio e madre nostra, Forgia 11. Nel cantare oggi il Te Deum di ringraziamento davanti al Signore, esposto solennemente nell'ostensorio, mi sono ricordato di voi, comunione, unione, comunicazione, confidenza, parola, pane, amore, cammino 535. Considerando che Gesù Cristo, ora nascosto nel pane e nella parola, deve venire alla fine dei tempi, gli ho chiesto di venire in nostro aiuto e ho affidato tutti voi alla sua misericordia. 33. Figlie e figli miei, se in questo mondo tanto bello e nello stesso tempo tanto travagliato, qualche volta qualcuno si sente solo, sappia che il Padre prega per lui, gli sta accanto veramente nella comunione dei santi e lo porta nel suo cuore. In questo senso mi piace ricordare che la liturgia canta la presentazione del bambino al Tempio, festa liturgica che abbiamo celebrato il 2 di questo mese, sembrava, dice, che Simone portasse Gesù tra le sue braccia, in realtà era il contrario. Senex puerum portabat, puer autem senem regebat. Liturgia delle ore, primi vespri della festa della presentazione del Signore, antifona al Magnificat. L'anziano portava il bambino, ma era il bambino che teneva sull'anziano e lo guidava. Così Dio ci sostiene, anche se a volte possiamo sentire solamente quanto ci pesano le anime. Così ci sostiene attraverso la benedetta comunione dei santi, solco 56. Per singulos dies benedicimus te, giorno dopo giorno. Ti benediciamo, Signore, con tutta la Chiesa ogni giorno, come amava ripetere Don Javier, figlio fedele di San José María e del Beato Alvero. Figlio fedele, dicevo, impegnato in una lotta quotidiana per lasciarsi portare dall'amore divino. Innalzo la mia anima a Dio tre volte santo, dalla mano della Vergine, madre dell'amore che si dà senza misura. Fa, o Signore, che grazie alla fede nel tuo amore viviamo ogni giorno con un amore sempre nuovo, in una gioiosa speranza. Con tutto l'affetto vi benedice vostro padre Fernando. 14 febbraio 2017.